Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. C'è chi combatte contro la spazzatura per strada e chi, raggiunto l'80% di raccolta differenziata, ancora non si accontenta. È il caso del comune di Capannori, in provincia di Lucca, dove si sono inventati il sacchetto della spazzatura intelligente grazie all'incorporazione di un RFID, un piccolo chip, una sorta di francobollo elettronico. Per fare cosa? Ce lo spiega la nostra Chiara Albicocco, che ha incontrato Alessio Ciacci, assessore all'ambiente di Capannori. Sentiamo com'è andata. Stiamo lavorando moltissimo sui temi della sostenibilità e dell'ecologia. Proprio per questo nel 2007 abbiamo aderito alla strategia rifiuti zero al 2020 e stiamo cercando, con ottimi risultati, di eliminare quasi definitivamente il rifiuto indifferenziato prodotto dalla nostra cittadinanza. Proprio per questo siamo partiti tra i primi in Toscana con la raccolta differenziata domiciliare porta a porta, che ci ha spinto fino all'80% di materiale inviato a riciclo. Mm-hmm. Ma l'obiettivo ulteriore è quello di, per diminuire ulteriormente quel 20%, di legare la tariffa che pagano i nostri cittadini non solo e non più soltanto in base alla volumetria dell'abitazione, al numero dei componenti della famiglia, ma anche del rifiuto indifferenziato effettivamente prodotto. E proprio per misurare questa tipologia di rifiuto e per dare degli incentivi a chi ne produce meno, abbiamo studiato questo sistema dove per tariffazione puntuale si intende la misura del numero di volte in cui le famiglie espongono il rifiuto indifferenziato. Ecco, altri comuni, quasi praticamente un consumo personale si può, esatto, alla fine stabilire. Esatto, alcuni comuni prima di noi erano partiti con il microchip inseriti nel bidoncino, ma volevamo evitare di distribuire un altro ulteriore bidoncino alle famiglie, perché spesso nelle abitazioni non è semplice tenerne diversi, e quindi ci siamo fatti produrre per la prima volta in Italia un sacco per i rifiuti che ha con sé un microchip, cioè un RFID si chiama questa tecnologia, che è una specie di adesivo con all'interno una filigrana che però funziona come un microchip. Ecco, e che quindi, tipo di parametri ci dà questo chip? Sì, praticamente contiene all'interno le informazioni sull'utenza, quindi sono state consegnate alle famiglie dei rotoli con i loro sacchetti, quindi ogni famiglia sa che ha propri sacchetti, e quindi quei sacchetti sono riconoscibili dall'operatore, dalla tecnologia, come i suoi. Okay. E quindi l'operatore non fa niente di diverso rispetto a prima, perché non ha un qualcosa con cui deve leggere questa tecnologia, ma semplicemente il sistema funziona con un'antenna, una piccola antenna a bassa frequenza, che installata sul mezzo, sul cassone del mezzo, che gli operatori guidano, è in grado di riconoscere di chi è quel sacco. Quindi l'operatore semplicemente, come prima, prende il sacco, lo getta nel cassone, e il cassone stesso legge di chi è. Facciamo un esempio: la famiglia Rossi ha i sacchetti dall'1 al 100. L'operatore prende uno dei sacchetti della famiglia Rossi, poniamo il caso il 20, lo butta nel cassone del mezzo, e il mezzo da solo, ovviamente grazie a questo sistema radio, capisce che il sacchetto 20 appartiene alla famiglia Rossi e lo mette in un database. Esatto. Okay. Esatto. E lo invia all'azienda, che poi grazie a questo dato produce poi la fatturazione a fine anno. Capiamo un attimo come avviene questo sistema. Cioè, a valle io ricevo i dati, capisco quanto ha prodotto la famiglia Rossi, e a quel punto che cosa succede? C'è una tabella, un sistema per cui la famiglia Rossi va a pagare meno tasse? Esatto, proprio perché a fine anno, facendo il calcolo di quante volte in un anno è stato esposto quel sacco, varia la tariffa. E questo incentiva le famiglie a fare molta più attenzione rispetto a ciò che va in quel sacco, e quindi ci va, mentre prima magari qualcosa ci finiva sempre per sbaglio, per disattenzione, un po' di organico, un po' di carta o un po' di plastica, ora, sapendo che pagano anche in funzione di quante volte lo espongono, fanno molta più attenzione. Infatti nelle zone dove siamo già partiti sperimentalmente, perché poi a livello definitivo il progetto parte dal 1 gennaio su tutti i 46.000 abitanti di Capannori, tutte le 3.000 attività non domestiche, quindi uffici, negozi, bar e aziende. E per ora è stata fatta una fase sperimentale? Esatto, circa 10.000 abitanti. E ha avuto successo? È stato un ottimo successo, perché appunto riscontriamo questa cosa, cioè che il cittadino fa effettivamente molta più attenzione. Quindi da una parte si riduce il non riciclabile, quindi perché ci va solo e soltanto in quel sacco davvero ciò che non è riciclabile, e è pochissimo ciò che non è riciclabile, che è materiale secco, quindi può essere benissimo tenuto lì e prestato. Quindi i benefici sono due: dalla parte che si riduce la quantità del materiale, dall'altro l'altro beneficio è che si espone su strada solo e soltanto quando è effettivamente pieno, quindi si riducono il numero di giri che devono fare gli operatori, e quindi c'è un doppio beneficio in termini sia di costi di smaltimento, che diminuiscono drasticamente ulteriormente, sia di minori giri che gli operatori devono fare. Ecco, a proposito di costi, un sacchettino di questo genere con all'interno questo chip molto semplice ovviamente è più costoso per un'amministrazione comunale, o comunque poi viene ammortizzato da tutta la filiera? Sì, non molto più costoso, e viene ammortizzato perché consideriamo un bidoncino col microchip costa molto di più, ma ha una vita chiaramente più lunga, intorno ai 4-5 anni. In questo modo, diciamo, si usano più sacchi, però si nota che da un ritiro settimanale, come succedeva in precedenza, del rifiuto indifferenziato, si passa mediamente a un ritiro che va da ogni 2 o 3 settimane, proprio perché, come dicevo prima, si incentiva, diciamo, il tenerlo in casa e l'esporlo meno possibile, e quindi in questo modo si consumano meno sacchi e si spende meno anche di fornitura alle famiglie. Insomma, se si paga in base alla quantità effettiva di rifiuti prodotti, la tendenza è a ridurli, differenziando meglio e magari facendo anche acquisti più attenti, per esempio evitando di acquistare prodotti con confezioni multiple. Grazie a Chiara Albicocco, grazie ad Alessio Ciacci, da Maurizio Melis buona serata, appuntamento a domani. We'll be right back.